Valeria non c'è din don Baldwin non c'è din don Baldwin non c'è che tira una ton din don din don e se due negro negro di carbon din don ti avesse so sguardi in el corazon che avesse so sguardi in el corazon din don.